America 24 di Mario Platero. Democrats fall short. They wanted to go forward and get Wall Street reform legislation moving. Has not happened today. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. La voce che avete sentito è quella dell'annunciatore del CBS che prende atto del fatto che la mozione procedurale democratica per poter passare al dibattito sul progetto di riforma del sistema finanziario, ebbene questo voto è fallito. I democratici non sono riusciti a superare la soglia dei 60 necessaria per impedire l'ostruzionismo da parte dei repubblicani. Non solo, hanno addirittura perso due voti. Alla fine il voto finale è stato 57 favorevoli e 41 contrari. I voti a disposizione dei democratici sono 59. I repubblicani dunque hanno votato compatti, e questa piccola dimostrazione di bipartisanship, e cioè di una situazione in cui alcuni esponenti di un partito votano con la maggioranza dell'altro partito, è stata in realtà al contrario di quella che ci si aspettava, o comunque di quella che sperava di avere la Casa Bianca di Barack Obama e che sperava di avere la leadership del Senato Harry Reid. The negotiations are ongoing. We're meeting with our staffs. I don't anticipate that we will reach a final agreement today, but we continue to work. We're getting closer and closer. And la voce che avete sentito, con l'accento un po' strascicato tipico del sud americano, è di Richard Shelby, senatore dell'Alabama, il numero due della commissione bancaria al Senato, che dice: beh, tutto sommato continueremo nel dibattito, chissà, forse un compromesso riusciremo anche a trovarlo. Ma è chiaro che si tratta di un grosso passo indietro per l'amministrazione di Barack Obama, perché questo progetto di legge che doveva rivoluzionare il settore, renderlo più trasparente, creare delle regole piuttosto severe, ferree nei confronti dei prodotti derivati e dei prodotti più rischiosi per le banche, un progetto di legge che proponeva anche la creazione di un'agenzia per la protezione dei consumatori, cosa molto importante per l'amministrazione a cui Obama teneva assolutamente, insomma, c'è chiaramente un passo indietro. I repubblicani sono contrari all'agenzia per la protezione dei consumatori, dicono che questa agenzia finirebbe per creare delle inutili rigidità burocratiche, non agevolerebbe il mercato e dunque vorrebbero che fosse abolita dal progetto di legge. I repubblicani hanno anche presentato un loro progetto di legge che prevede di includere nella regolamentazione Fannie Mae e Freddie Mac, che sono le due agenzie federali che garantiscono i mutui immobiliari. Un fronte dunque piuttosto complesso, piuttosto confuso. L'unico passo in avanti sul fronte democratico che si è avuto è stato l'accordo raggiunto sul fronte dei derivati. Il grande finanziere Warren Buffett voleva che fossero escluse le posizioni sui derivati diciamo già esistenti da certi requisiti di capitale, e quindi per poter garantire la solidità di questi investimenti. I democratici si sono messi d'accordo in due commissioni diverse, hanno unificato due proposte diverse ed è emersa alla fine una proposta molto più dura, molto più rigida, una proposta però che resta in limbo perché doveva essere comunque inclusa nella proposta più ampia, quella cioè di riforma dell'intero settore. Si ricomincia da capo dunque, si ritorna al tavolo dei negoziati, molta delusione a Washington, molta delusione anche negli ambienti del Fondo Monetario Internazionale, perché dopo le riunioni della settimana scorsa sembrava che l'America potesse davvero in qualche modo dimostrare una leadership più aggressiva proprio sul fronte delle riforme sistemiche. Così per ora non è stato. Il ritardo che si andrà a accumulare sul fronte della riforma del sistema finanziario creerà dei problemi anche per l'altro fronte che aveva aperto con forte aggressività il presidente Barack Obama la settimana scorsa, quello della riforma dell'immigrazione, dopo che l'Arizona aveva introdotto delle leggi severissime, durissime per catturare ed espellere i cosiddetti immigrati illegali. Ecco, attorno a questo si è sviluppato un altro dibattito politico. È chiaro che i repubblicani stanno tenendo molto alto, ad alzo zero ormai, l'attacco nei confronti dei democratici. L'obiettivo di fondo resta quello delle elezioni di novembre. Un importante senatore repubblicano, Lindsey Graham, aveva respinto l'idea di portare avanti un suo progetto di legge sull'immigrazione, voleva che di questo si discutesse dopo. Il fatto che Obama abbia giocato d'anticipo non è piaciuto, dunque improvvisamente quella che sembrava un'azione molto coordinata da parte della Casa Bianca appare un po' come un'azione scomposta, come un gioco d'anticipo che forse non ha funzionato. Non solo, si cominciano a fare dei paragoni, si comincia a dire che il movimento dei Tea Parties, che poi sposa la linea dura sul fronte della migrazione, è un movimento che farà da punto di riferimento di nuovo per i repubblicani a novembre, un movimento con cui Obama dovrà continuare a confrontarsi e sembrava invece che un po' l'avesse debellato. Un movimento, questo dei Tea Parties, che alcuni confrontano con quei movimenti che nascono dal basso e che presenta alcune similitudini con la Lega. E allora dove sta andando questo movimento? Lo chiediamo a Robert Zareschi, che ha scritto recentemente un piccolo saggio proprio sul movimento Tea Party e che insegna letteratura francese alla Houston University. C'è un aspetto molto interessante con l'Europa, secondo me, in questo. E quindi chiediamo a Zareschi se secondo lui ci sono dei paralleli con movimenti europei. I think there is a fascinating parallel with the Northern League in Italy. What the Northern League has in common with the Pujadist, but not with the Tea Party movement here in the States, is the presence of a very strong leader, of an individual. I paralleli ci sono, molto interessanti, intanto con la Lega Nord in Italia, ma anche con il movimento dei Pujadisti in Francia. Pierre Pujad fu uno dei grandi leader che negli anni 50 mobilitò la base popolare contro l'establishment, contro il governo. Movimenti che nascono dunque da una protesta, da un risentimento nei confronti dell'intrusione dello Stato nella loro vita e quindi reagiscono e condividono naturalmente questo malumore, questo malessere con larghe fette della popolazione. Ecco, questo sta facendo il Tea Party, in qualche modo è un contraltare di quello che è già successo in Europa, con alcune differenze. Intanto, in Italia, nella Lega Nord, c'è un grosso leader, Bossi, dice Zareschi. Invece il movimento del Tea Party non ha un vero e proprio leader. Non solo, ma il movimento della Lega Nord è soprattutto caratterizzato geograficamente al nord, appunto come dice il suo nome, mentre invece il movimento dei Tea Party è a livello nazionale. Ci sono dunque delle piccole differenze, ma in fondo questi movimenti su cui poi si è costruita una base politica, questo ci dice almeno in Italia la nostra esperienza, quasi certamente anche in Italia ci sarà un passaggio, una trasformazione da fringe movement, da movimento che si trova così ai margini della vita politica americana, verso il centro della vita politica del paese. Staremo a vedere cosa succederà a novembre. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Ieri il presidente Barack Obama, prendendosi una pausa dai mal di testa delle varie riforme in discussione in Congresso, ha trovato il tempo di ricevere gli Yankees, i grandi giocatori di baseball che hanno vinto il loro 27° titolo della World Series nel campionato dell'anno scorso. Ricordiamolo, Barack Obama poi un grande tifoso dei Chicago White Sox, eppure li ha ricevuti per elogiarli e per elogiare la città di New York che ha conquistato questo importantissimo titolo. Non possiamo dunque che dedicare alla città di New York un grande classico nella magistrale interpretazione dell'indimenticabile, intramontabile Frank Sinatra, New York, New York. Your small town blues, they're melting away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.